Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. L'America è un paese dai mille volti. Le grandi pianure, i deserti, la natura e i national parks, le ghost towns e le città sconfinate. È impossibile raccontarne tutto il fascino, nemmeno in decine di libri. Allo stesso modo è difficile trovare molti punti in comune tra l'avvocato, abituato a essere fagocitato dai ritmi frenetici della città che non dorme mai, e il fattore di provincia, che sembra la versione contemporanea di una fotografia di Walker Evans. Eppure, da nord a sud, da est a ovest, c'è una cosa che mette d'accordo tutti gli americani: la passione per l'abbigliamento casual. I ricchi newyorkesi d'estate usano ritirarsi negli Hamptons, eleganti ville affacciate sull'oceano, spiagge bianchissime e infinite, qualche villaggio di pescatori pieno di negozi di antiquariato, cene a base di aragosta innaffiata da buon vino estratto dai vigneti della zona. L'aspetto sornione della campagna dall'aria un po' snob è quello raccontato dal film Tutto può succedere con Jack Nicholson e Diane Keaton. E voi come vi siete conosciuti? A un'asta di vini da Christie's. Harry era il miglior acquirente della serata. Continuava ad alzare la paletta solo per strapparle un sorriso. E in me che non si dica, mi ero comprato l'intera collezione, in pratica tutte le bottiglie esistenti di Chateau Margaux. Dopodiché, il meno che potesse fare era bere una bottiglia con me. Sei mai stato sposato? No. No, mai. Tieni, mamma. Wow! E come mai, secondo te? Beh, non siamo tutti dello stesso stampo, è squadra vincente. Già, non si cambia. Esatto. Il signor Bloomberg, costretto a portare la cravatta tutto l'anno, allenta la pressione indossando, per correre in riva al mare con il suo cane, pantaloni al ginocchio con le tasche, ciabatte di gomma e una t-shirt. Allo stesso modo, ma con la maglietta molto più grande della sua taglia e un paio di scarpe da basket ai piedi, è vestito Tom, adolescente che abita in una casa cadente nella periferia di Detroit, con l'erba che invade il marciapiede. Sogna il rap e il suo mito è Eminem, che è cresciuto qui lungo la 8 Mile Road, la strada che divide il quartiere bianco da quello nero. Stai ancora in quel Little Caesar, su a Warren? No. Lavoro al New Detroit Stamping ora. Cacciato via da una pizzeria, penso. Io almeno ce l'ho un lavoro. Maria è una portoricana, nata in un vicolo della vecchia San Juan. Pavé, case coloniali dai colori sgargianti e cantanti di salsa agli angoli delle strade. Ma la poesia a volte non basta per vivere e da ormai 10 anni si è trasferita a Los Angeles. Adesso, vestita con un abito leggero dalle spalline sottili, sta imbiancando la cameretta del suo bimbo in arrivo. Dall'altra parte del paese, a Milwaukee, Wisconsin, la città di Happy Days, Jennifer è in ufficio. Indossa, per sentirsi a suo agio, un paio di jeans e una maglietta a tinta unita. Con una marea di documenti davanti e il telefono che continua a squillare, sta organizzando uno dei tanti festival musicali della zona. Nella commedia demenziale Fusi di testa, Alice Cooper, nella parte di se stesso, ha appena tenuto qui un suo concerto. Anche lui, insospettabile con il suo aspetto macabro e i suoi show horror, in camerino tiene un paio di pantaloni morbidi e una t-shirt. Alice, possiamo entrare? Bene, allora, vieni spesso qui a Milwaukee oppure, Oh, io sono un frequentatore abituale, ma a Milwaukee non sono certo mancati i visitatori. I missionari francesi e gli esploratori venivano qui sin dalla fine del 1600 a fare commerci con i nativi americani. Ah, ma certo, Milwaukee non è un nome indiano. Sì, Pete, lo è. A dire il vero si pronuncia Milwaukee, che in Algonquian significa la buona terra. Ecco, questa proprio non la sapevo. Penso che uno degli aspetti più interessanti di Milwaukee sia il fatto che è la sola grande città americana ad aver eletto 3 sindaci socialisti. È uno che gode forte o no? Ok. Diverse persone, diverse vite, stesso marchio. Abercrombie & Fitch. Oggi a Destini Incrociati vogliamo raccontarvi la miracolosa avventura dei due uomini che questo marchio l'hanno creato. I loro nomi sono David T. Abercrombie ed Ezra Fitch. David T. Abercrombie ed Ezra Fitch. Hello, hello, L'abbigliamento casual è pratico, fa sentire sempre a proprio agio e nella maggior parte dei casi è piuttosto economico. Ecco perché nell'America che non ha la grande tradizione della moda europea, questo stile va per la maggiore. È un fattore culturale, per cui oltre alla gente comune, anche le star nella vita quotidiana si vestono così. Sfogliando una rivista di gossip, capita spesso di vedere una fotografia di qualche divo di Hollywood che fa la spesa in ciabatte di gomma e pantaloni corti. Difficile vedere Monica Bellucci altrettanto naturale. Invece, da John Kennedy a Katharine Hepburn, da Greta Garbo a Ernest Hemingway, tutti hanno avuto nell'armadio capi siglati A&F. Inclusi i protagonisti delle serie TV più di successo degli ultimi anni, come The O.C. Cos'è quella faccia? Niente, giuro. Cioè, ragionavo che quando stai tanto con qualcuno, ti diventa tutto uguale, ripetitivo. Il rischio c'è. Io e Seth sbagliamo, per te. A vivere in simbiosi da 6 mesi e passa, ad abitare insieme quando andremo a Providence. Non so che dirti. Mi sono sposata così giovane che non ce l'ho fatta a vedere in prospettiva che volevo dal futuro, che volevo da me. Non mi sono laureata, sono rimasta la zappa di sempre. E 20 anni dopo, che faccio? Mi sposo di nuovo e di nuovo incinta. No, dai. Summer, tu sei carina. Sei in gamba, devi trovare il tuo spazio nel mondo. Devi conquistartelo, non far diventare tutto uguale e ripetitivo. Il 6 giugno 1867, quando David T. Abercrombie viene alla luce, sono soltanto 16 anni che Baltimora, stato del Maryland, è diventata una città indipendente. Vale a dire che non fa parte di alcuna contea ed è soggetta alla diretta autorità dello Stato. Siamo nell'America nord-orientale, sulla costa dell'Oceano Atlantico, e il clima è umido, con piogge sparse durante tutto l'anno, ma poche temperature estreme. La fama di Baltimora, oggi come nel secolo scorso, non è delle più lusinghiere. Classificata come la 12ª città più pericolosa degli Stati Uniti per via del suo alto numero di crimini, ha dovuto lottare per dimostrare di essere anche culturalmente stimolante e accogliente con le minoranze. Molto merito in questo va senz'altro alle personalità che da qui sono partite e che hanno trovato il loro posto di rilievo nel mondo. Lo scrittore Tom Clancy, la cantante Billie Holiday, il musicista Frank Zappa, il campione di nuoto Michael Phelps e la politica Nancy Pelosi. Senza dimenticare naturalmente il signor Abercrombie, che fin da piccolo ha amato il porto della sua Baltimora. È quel fascino che solo le città di porto hanno. Il fascino dei vicoli bui, del traffico dei mercanti, delle navi che arrivano e poi se ne vanno. Le città come Baltimora sono intense perché nascondono 1000 contraddizioni. Mamma Elizabeth e papà John hanno antenati francofoni che arrivano dal Canada e che si sono trasferiti in America più per scelta che per necessità. La situazione economica della famiglia è più che buona, tanto che lo stesso David, cosa non così diffusa nell'Ottocento, può evitare di andare a lavorare e fare davvero il bambino. Studia molto e con profitto. La mattina nelle scuole pubbliche della città. Il pomeriggio con insegnanti privati che vanno a casa sua e lo aiutano a fare i compiti. Qualche volta ottiene il permesso di invitare a casa degli amichetti con cui giocare. Non glielo negano perché è già maturo e responsabile. La passione di David è la natura. Non riesce a stare a casa più di qualche ora. Poi, anche d'inverno, ha bisogno di uscire e godersi l'aria aperta. Ogni scusa era buona per uscire, anche sotto la pioggia o la neve. Il mio corpo vive solo quando è in mezzo al verde. L'educazione di David prosegue al Baltimore City College, istituto antico e tradizionale, decisamente poco incline alla goliardia. Il giovane, pur se intraprendente, non può ancora nemmeno prendere parte al tradizionale album di fine anno con aneddoti, storie e ricordi degli studenti, perché la Green Bag, così viene chiamato l'album, incomincia ad essere pubblicata solo nel 1896, quando lui ormai è già impegnato in tutt'altra attività. David Abercrombie ha poco più di 20 anni e crede di aver trovato la sua strada. Fa il topografo e l'ingegnere civile, il che gli permette di conciliare i suoi studi con la gestione dei grandi spazi aperti a lui tanto cari. In un'epoca in cui la speculazione edilizia non è ancora imperante, le costruzioni fanno sognare un progresso vicino, un maggiore benessere per tutti. Ed è questo il suo modo di vedere le cose. Autorevole nei rilevamenti e bravissimo a trovare soluzioni dell'ultimo minuto, come quando nel West Virginia è a capo di una società che lavora legno e carbone, Abercrombie ancora non può sapere che il suo destino però è un altro. Capelli separati ordinatamente a metà da una riga, abbigliamento sempre curato ed elegante, e piccoli occhiali rotondi appoggiati sugli occhi. Questo è il ritratto di David Abercrombie, un uomo riservato e dalla profonda sensibilità. La sua carriera come topografo e ingegnere continua senza intoppi. Anzi, il giovane acquisisce sempre maggiore credibilità e prestigio per la serietà e la lungimiranza con cui fa le sue scelte. E per questo, probabilmente, se un giorno una sua decisione, percepita come improvvisa ma in realtà lungamente meditata, lascia tutti senza parole. Da qualche anno ormai Abercrombie viaggia per tutto il paese, da un lato per affari, dall'altro lato per piacere, quando è possibile, ancora meglio, mettendo d'accordo le due cose. Tutti i commerci e le novità passano per New York e vi approda anche David, che ha in mente di aprire un negozio. La città è molto diversa da come la conosciamo oggi. Manhattan non ne fa ancora parte e anche Brooklyn è ancora indipendente. Gli abitanti, 1,5 milioni nell'ultimo decennio dell'Ottocento, raddoppiano, soprattutto per via degli enormi flussi migratori che partono dall'Europa. La Statua della Libertà, dono dei francesi, viene inaugurata nel 1886, proprio in onore dell'arrivo di milioni di persone che sbarcano in cerca di fortuna. Anche se un film come Nuovo Mondo, diretto da Emanuele Crialese, racconta di un'accoglienza non esattamente a braccia aperte, tra controlli medici piuttosto rozzi e prove psicoattitudinali vagamente razziste, visto che la scarsità di intelligenza viene considerata malattia contagiosa e gli emigrati che ne sono affetti vengono rimpatriati. Allora, lei è in mezzo al mare, in una piccola barca. C'è una grande tempesta. Nella barca con lei ci sono due sacchi. Uno è un sacco pieno di pane e l'altro è un sacco pieno di oro. Tu ti devi salvare. Quale sacco butti? Ma perché attirare questi sacchi? Io faccio... Etto l'oro, un pozzettare l'oro. He says he can't throw the gold. Un pane un mangio. He'd eat the bread. Ah, non getto niente. Ne, non getto niente. Nothing. He wouldn't throw anything. Giusto? Ok. Giusto, vero? È il lontano 1892 quando David Abercrombie si lancia in una nuova avventura, lasciando l'ingegneria. Apre al numero 36 di South Street, cuore di Manhattan, un piccolo negozio di caccia e pesca, di quelli che vendono dalle attrezzature da campeggio ai piccoli attrezzi più utili per le attività all'aria aperta. Come a dire, per lui, un ritorno alla sua passione più pura, la natura. Poco a poco incominciano ad arrivare i primi clienti. David, che nel frattempo si è sposato con Lucy Abbott Kate a Baltimora e fa la spola con Newark, in New Jersey, dove vive con moglie e figli, prova ogni mattina un'emozione infinita quando gira l'insegna di legno per segnalare che da chiuso ora il negozio è aperto. Gli sembra per la prima volta nella sua vita di avere costruito davvero qualcosa solo con le sue mani, qualcosa che è partito da un suo sogno, non come le costruzioni che da ingegnere gli venivano inevitabilmente commissionate. Fa gli ordini, prova sulla sua pelle quello che mette in vetrina, inventa nuove soluzioni per il campeggio con la sua esperienza di ingegnere e cura minuziosamente ogni particolare cercando di passare più tempo possibile dietro al bancone. Per me il mio negozio è sempre stato come un figlio. L'ho fatto nascere, l'ho cresciuto, mi sono preso cura di lui tutti i giorni. E proprio come un padre lo mostravo orgoglioso a chi entrava. Il mio negozio mi ha sempre reso un uomo felice. Mancava solo che gli affari si consolidassero, poi sarebbe stato perfetto. Inutile negarlo. Quando si tratta di servirsene per campare, anche il sogno più bello deve essere remunerativo. Il negozio di Abercrombie è stato un grande investimento e ancora David fa fatica, una volta pagate le spese e i fornitori, a trarre uno stipendio buono per lui e la sua famiglia. E così, pur credendoci moltissimo, sempre più spesso David si ritrova fino a notte fonda di fianco alla cassa, con il sonno che incombe, munito di carta e penna per fare i conti che riguardano la sua attività. Parlare dei suoi problemi economici non è certo una buona pubblicità. Eppure l'ingegner Abercrombie si confida praticamente ogni giorno con un cliente abituale, del quale è diventato ormai amico. Si chiama Ezra Fitch. E se prima passava soltanto per comprare qualcosa, adesso lo fa anche per il piacere di fare due chiacchiere. Cerca, con l'onestà di chi fa le cose senza pretendere niente in cambio, di dargli i migliori consigli per fare in modo che gli affari girino di più. Le regole del marketing non vengono ancora applicate scientificamente, ma il buon senso, spesso, arriva prima delle teorie. Dicevo ad Abercrombie come sistemare la merce in modo che tutti la vedessero. L'ho convinto a eliminare certi prodotti che lui si ostinava a ordinare ma che nessuno comprava. Insomma, credo di avergli dato una mano, anche se lui non l'ha sempre presa bene. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo alla fine dell'Ottocento, quando New York è molto diversa da come siamo abituati a vederla oggi. David Abercrombie è un trentenne intraprendente e sveglio che, dopo aver acquisito una grande autorità come topografo e ingegnere civile, ha deciso di lasciare tutto per mettere in piedi un sogno tutto suo. E così si è rimboccato le maniche e nel caldo giugno del 1892 ha aperto al numero 36 di South Street, cuore di Manhattan, un piccolo negozio di caccia e pesca che funziona ma non ancora benissimo. Neanche a dirlo, due passatempi per ricchi signori che possono concedersi il lusso di un hobby per dedicarsi al quale curano tutto nel dettaglio, dalle calzature alla camicia, dall'amo alle calze. Io sono nato in una famiglia benestante, ma le persone che venivano a comprare nel mio negozio erano ricche davvero, potevano permettersi di non lavorare. Io invece avevo bisogno di vendere per campare, per mandare avanti la mia famiglia, che ormai era numerosa. Tra questi clienti c'è Ezra Fitch, che ormai è diventato un amico. Prima andava in negozio soltanto per gli acquisti, ma poco a poco, tra i due, è nata una simpatia che si è trasformata in confidenza. Tanto che Abercrombie si fa ormai consigliare da Fitch sugli ordini da fare, sul modo in cui disporre la merce per cercare di attirare più curiosi. Dal canto suo, Fitch, solitario di natura, ha finalmente trovato qualcuno con cui parlare. In un villaggio a due passi da New York, Coxsackie, Greene County, è una fosa giornata di fine settembre del 1865, quando, distesa sul suo letto e circondata dai parenti, mamma Margaretta Vianne Hasbrook partorisce il piccolo Ezra, che si chiama come il nonno. È il primogenito e anche l'unico figlio di Margaretta e papà Roswell Reed. Il destino ha voluto portarsi via la mamma troppo presto, per colpa di una complicazione che oggi non sarebbe un problema curare, ma che allora risultava ancora mortale. Sono cresciuto senza mamma, ma la mia salvezza è stata avere dei nonni fantastici e un papà affettuoso che si è sempre preso cura di me in tutto. Papà è un vedovo troppo giovane per rimanere solo e, aiutato dal suo fascino, si risposa presto con Helen Carswell, che con il piccolo Ezra va molto d'accordo. La famiglia è benestante, gli affari sono sempre andati bene, non c'è mai stato un problema economico. Molto uniti attraverso le generazioni, vivono tutti in una grande proprietà affacciata sul fiume Hudson, che era stata costruita anni prima dal nonno. La tenuta Fitch è celebre e ammirata da tutti, con il suo splendido palazzo neogotico, numerose abitazioni indipendenti e un parco enorme che finisce sul molo delle barche. Per Ezra sono gli anni più belli. È stato lì che ho imparato a pescare, la mia grande passione. Mi ricordo che da ragazzino mi sedevo sul molo di legno, gambe a penzoloni, e stavo ore da solo ad aspettare i pesci. Il tramonto, quando venivano a chiamarmi per dirmi che era pronta la cena, era il mio momento preferito. What tomorrow may rain, so I'll follow the sun. Ezra Fitch sorride raramente. È abituato da sempre a portare dei piccoli occhiali rotondi. Ha il tic di spingerli in su con il dito indice. All'università di New York è un bravo studente di legge, di quelli che quando il professore fa una domanda trabocchetto alzano la mano e stupiscono tutti con una risposta fuori dal coro. Eppure è permeato di inquietudine, forse proprio perché nella vita ha sempre avuto tutto e senza fatica, è impaziente di dimostrare prima a se stesso che agli altri che sa cavarsela da solo. E così, una volta laureato, esercita poco la professione perché preferisce dedicarsi alla costruzione di edifici nei dintorni della tenuta di famiglia. Una cosa, dunque, che lo accomuna con la storia di Abercrombie. Già dalle prime volte che andavo in negozio, prima ancora di fare i miei acquisti, io e David parlavamo di architettura. Lui era un ingegnere e anche se aveva cambiato mestiere ne aveva l'impostazione mentale. È stato il nostro primo punto di contatto. Quando un'esistenza diventa troppo facile, l'uomo spesso si annoia e ha bisogno di trovare nuovi stimoli. Ezra ha un buon lavoro, gli affari vanno a gonfie vele, è felicemente fidanzato con Sarah Sturges, la donna che sposerà. In poche parole, non gli manca niente. Nemmeno il tempo libero, che passa sempre all'aperto fra una gita in barca e un'escursione in un bosco, dalla pesca alla caccia. Forse proprio perché è l'opposto del suo lavoro di costruttore e lo svincola dalle rigide regole dell'uomo di legge, la natura è quello che lo fa stare davvero bene. Andare a fare la spesa nel negozio di Abercrombie diventa presto per Fitch un'abitudine. Preciso al limite del puntiglioso, man mano che prende confidenza, incomincia a dare consigli su come gestire gli ordini ed esporre la merce. David, che ha bisogno di attirare più clienti, se da un lato ringrazia, dall'altro si sente un po' toccato nell'orgoglio e a volte preferisce fare di testa sua. Quando uno dei due a turno scopre di avere ragione, è una piccola soddisfazione nei confronti dell'altro. Succede in negozio, come succede quando i due vanno insieme a pescare e i battibecchi su tutto, dal luogo adatto al clima, sembrano interminabili. Fin dal loro primo casuale incontro da commesso a cliente, David Abercrombie ed Ezra Fitch instaurano un rapporto che ricorda tanto quella strana coppia composta da Jack Lemmon e Walter Matthau, i due irresistibili brontoloni e i due improbabili seduttori delle omonime pellicole. Buongiorno, signor Gustafson. Tanto non me la bevo. Tu con quella bellissima donna? Sono il ladro di cuore, il gangster dell'amore. Gangster? Ora capisco. Gli hai puntato una pistola contro per farlo drizzare. Come non detto. Perfino le sue squallide battute di repertorio sembrano gustose e divertenti stamattina, signore. Va bene, Casanova. Dobbiamo andare all'Oktoberfest. I ragazzi ci aspettano là. Asimolo, cocululu. Per anni l'hai vista solo col binocolo. Non ti montare. Siamo nel 1900 e il negozio è ormai aperto da 8 anni, quando Abercrombie fa il grande passo. Chiede a Fitch di entrare in società con lui. L'amico, seguendo il motto della sua vita, tutto può essere fatto, accetta e rivoluziona da subito l'impostazione delle vendite. Gli affari, nonostante i costanti litigi tra i due che riguardano qualsiasi aspetto della gestione, incominciano davvero a entrare a vele spiegate verso il successo, tanto che presto Fitch acquista un'altra quota e l'azienda diventa ufficialmente la Abercrombie & Fitch. Adesso il piccolo shop con bancone e scaffali in legno di South Street ha esposto armi e coltelli per la caccia, attrezzatura per il campeggio, materiale per la pesca e sempre più abbigliamento specializzato per tutte queste attività. Il dibattito più profondo tra i due partner riguarda l'espansione del marchio. Mentre Fitch, innovatore e progressista, vorrebbe renderlo meno elitario e più alla portata di tutti, Abercrombie preferisce lasciare le cose così come sono. Privilegia la fedeltà al suo sogno originale rispetto all'adeguamento al mercato e, integerrimo com'è, nel 1907 lascia addirittura la società. All'inizio mi faceva piacere l'aiuto di Fitch, ma poco a poco si è impossessato della mia idea, o almeno questa è la sensazione che ho avuto. Gli riconosco il merito di aver lanciato gli affari, senza di lui non ce l'avrei mai fatta, ma sentivo che l'aria stava diventando irrespirabile. Durante l'era di Fitch, Abercrombie se ne sta in disparte a guardare la sorte del suo negozio. È come se i due, in una immaginaria staffetta, si fossero passati il testimone. Se Abercrombie è l'artefice di tutto, l'uomo che ha messo in piedi un'attività partendo da zero, con pochi soldi e la sola forza delle sue idee, è a Fitch che si deve l'impetuosa popolarità del marchio. Due uomini, due teste, due anime, ma un solo grande destino di successo. Destini incrociati. A Destini incrociati siamo nei primi anni del Novecento e due grandi uomini molto diversi tra loro si sono appena passati un testimone vincente. Il primo, David Abercrombie, nel 1892 ha aperto un piccolo negozio di caccia e pesca nel cuore di Manhattan. Un negozio elitario, poco popolare e quindi con una redditività limitata a pochi anche se buoni clienti. Uno di questi, Ezra Fitch, è un ricco avvocato che preferisce dedicarsi alle costruzioni piuttosto che alla legge e ancora di più, cosa che lo accomuna a David, gli piace stare all'aria aperta. All'inizio Fitch va in negozio solo per comprare, ma poco a poco diventa amico del proprietario e comincia a dargli rudimentali ma saggi consigli che oggi si chiamerebbero marketing. Nel 1900 Fitch diventa socio e spinge verso la direzione di un marchio per tutti. Abercrombie non ci sta e lascia, ma ormai Abercrombie & Fitch è già sulla strada del successo. Ho sofferto moltissimo quando David ha deciso di lasciare la società che lui stesso aveva fondato. Ho cercato per come ho potuto di dare lustro al suo marchio. Sotto la guida di Fitch, il negozio ha un'espansione inimmaginabile grazie ai suoi interventi da precursore dei tempi. Punto primo. Prezzi ridotti per invogliare tutti a comprare è una scelta di prodotti che non riguardi più soltanto gli hobby dei benestanti annoiati come lui stesso era. Punto secondo. Lavorare sull'atmosfera del negozio, che diventi un'esperienza a tutto tondo e diversa da qualsiasi altra. Ad esempio, gli oggetti non vanno più esposti dietro a sterili vetri, ma toccati e provati. In un angolo c'è un vero e proprio accampamento, dove un istruttore insegna a chi vuole come si montano le tende e come si sopravvive nei boschi. Punto terzo. Conseguente ai primi due. Spostarsi più in centro, precisamente tra la Madison Avenue e la 45esima strada, occupando un intero edificio con ben 12 vetrine. Tutti, a New York, hanno adesso una camicia che reca le iniziali dei due soci, A&F. Impossibile negare la lungimiranza e il fiuto per gli affari di Ezra Fitch. Per esempio, nel 1909, nell'introdurre un catalogo spedito per posta attraverso il quale i clienti hanno la possibilità di fare gli ordini. Inoltre, è stato lui, il primo in tutto il mondo occidentale, a vendere nel negozio un gioco di provenienza cinese che diventa molto popolare, praticamente una moda frequentata in gran parte dalle donne, il Mahjong. Il famoso gioco di tessere in cui bisogna costruire una muraglia. Mi aveva colpito e avevo deciso di venderlo, ma mai avrei pensato che avrebbe avuto così tanto successo. E invece non riuscivo più a stare dietro agli ordini, tutti ormai volevano il Mahjong. Neither one will ever give in. So we gaze at an 8x10, thinking about the things that might have been. And it's a dirty rotten shame. Whoa, Abercrombie & Fitch, partito come piccolo negozio, lentamente si espande e sopravvive felicemente alla gestione degli uomini che lo hanno creato. Dopo New York, vengono aperti un grande store a San Francisco e uno a Chicago. Naturalmente, sempre secondo la filosofia delle tre parole magiche: innovazione, qualità e creatività. Le spedizioni da un raggio limitato cominciano a essere in tutto il mondo, quando la fama del marchio sportivo arriva alle orecchie dei più grandi avventurieri. L'esploratore artico Richard E. Byrd chiede che gli venga mandato tutto il materiale necessario per affrontare il ghiaccio. All'aviatrice Amelia Earhart, interpretata da Hilary Swank per il grande schermo, serve invece l'attrezzatura per sorvolare gli oceani. Voglio fare il giro del mondo in aereo. È impossibile. Io ci riuscirò. Ernest Hemingway e Theodore Roosevelt, inclini ad altro tipo di imprese eroiche, si accontentano invece di comprare abbigliamento casual, che è sempre più di moda tra gli americani e non solo. Come loro, amanti del genere sono stati John Kennedy, Katharine Hepburn e perfino la divina Greta Garbo. Oggi il marchio A&F è un business mondiale che prende slancio ogni giorno e ogni volta che viene aperto un nuovo negozio è un evento. A Milano apre il primo negozio di Abercrombie & Fitch. Quello delle felpe e delle magliette che chiunque sia stato in America ha comprato. Centinaia di ragazze hanno fatto chilometri di coda. Ragazzi a torso nudo che accolgono i clienti. Ragazze che ovunque nel mondo salutano in inglese. Buio ovunque che lascia in luce soltanto gli scaffali con i vestiti e un profumo che toglie il fiato. Tutto questo e molto altro fa parte dell'esperienza sensoriale che si vive quando si entra in uno store Abercrombie & Fitch. I fondatori, David e Ezra, di certo tutto questo non potevano immaginarlo quando hanno cominciato, prima uno e poi l'altro, la loro avventura durata più di 100 anni. Come fly with me, let's fly away. If you can use some exotic booze, there's a bar in far Bombay. Come fly with me, let's fly away. Come fly with me, let's float down to Peru.